vola fino a qui, dal firmamento volando giù. Guarda le sue sorelle che si affacciano lì nel blu. E se una trema, tutte le vedrai. Danzano nella notte, non si fermeranno mai. Qui, sempre qui splenderà, perché sia sempre luce intorno a te. Quel faccino furbo che...